contatto con i cani più forti, riescono a passare gli altri. Sì, ma scusa, come mai. Come mai, vabbè, non me li mette in cioè, non me li mette in fila, Rai 1, Rai 2, Rai 3, poi Rai 4, come mai, non ci riesco, manco manualmente. Qua io sono uguale di due, te lo faccio vedere. Lo stesso problema? Chi ha praticamente messo su un'altra marcia, però questo problema. Allora, tu fai la ricerca dei canali, trova se sono andato a cercare il canale. Sì. Poi muovi poco a poco lo spinotto e riceve il centro. Lo riabbassi, lo rimuovi e dovremmo sempre aprire, ma non ha mai gatto. No, ma non penso sia lo spinotto tanto qua. Al 100%. Lo stesso problema c'è il televisore di Marina, che l'avevo fatta la mamma, un magista che mi sa lo mattessi. 68 canali, però quello è impossibile perché è stato sempre lì fermo, non è un problema di antenna. Se non si riesce a fare Rai 1, Rai 2, Rai 3, poi canale 5, Rai 4, non te li mette in corso. E ti dà circa 68-69 canali. Lo stesso problema. È come quelli del Coder, non so se hai presenti, quelli po' vecchiotti che ti danno quei pochi canali. Uguale identico fa. Ho capito, allora c'è un problema di firma, sì, l'ho trovato, media comfort, sì, vabbè, e vabbè, magari ci facciamo display, tanto già è una cazzata, è il caso, dovesse succedere, si già non è un problema, peccato che il connettore, certo l'avrei piazzato il connettore, io già mi assillo bene, già sono abbastanza attrezzato, già riesco a farlo. Purtroppo non si può fare, cioè se mi muovo magari mi direi solo un casino, già con la vista mia lo stesso è messa male, poi se mi metto a fare quei lavori lì soffro ancora di più a rifare le cose. Prima volta ci ero riuscito, che mancavano due piedini, cosa avevo fatto? L'avevo graffiato un po', gli avevo messo dei filetti di fili di classico filo, no? Li avevo piegato sotto bene ed ero riuscito a piazzare il connettore e a farlo andare. Culetto, figurati un po'. Non è vero. Mi metto un cazzo di trovare pizze, ma anche a quello che guardare le pizze più o meno le altre. Ma infatti no, già mi piace di questi cosi, ma fare questi cosi, però ormai la pizza è quella che guarda, mi aiuta molto la lente, mi ha detto sì, no, lascia perdere, non ci riesco più. Poi mi sono preso gli occhiali da Daniele, quindi quante le cosettine, gli occhiali con la luce. Ah, io ho capito, regolabili. No, hanno tutti quanti in base alla tua vista, li metti le varie cosettine, no? Lenti. Ma ce ne ho visto un paio, praticamente c'ha questa specie di rotella, tu la giri, capito, ti dà la tua i gradi che ti servono a te. Toghi quegli occhiali, pieghevoli sono anche. Quelli ce l'hanno nel comune, li ho provati e non va. No, non servono, fanno la pubblicità pure. Non devi avere problemi dalla vista, nel senso che quelli ingrandiscono se tu non hai problemi di vista. E io adesso dico una fianca, c'è la biglia di luci. Allora, diciamo, cazzo mai pioggia, sabato no, domenica pioggia, lunedì no, martedì no, mercoledì no, quindi sì, cazzo questa pioggia ha rotto le balle. Sì, vabbè, intanto non è che lo guardo da nessuna parte, però volevo approfittare per passare un po' di cespugliatore, ma di la biglia in culo. Ehi, a me l'altro giorno l'ho usato io, ho fatto un po' di piazza pulita. Io sto sempre aspettando che sono pagati un po' di ulivo e gli altri degli ulivo. Mi sono fatto un bel po' di legna, ma questo la mano che asciuga un po', un paio di giornate calde, ti asciuga, ciò ti fa una beffa. A parte se ci passi, vabbè, in mezzo al terriccio, fin su per istituire, però cammini più. Ci sono fatto quella settimana che ha fatto il piccolo, quella settimana che ha fatto questo il tempo, non c'era proprio un caso. Tutta la settimana intera tagliando il colore e bruciando a frasca. E vabbè, la campagna di tuo padre, no? No. Campagna tua, ho capito. Cosa? Lui che bisogna aspettare che arrivi la primavera, così si possono fare tante cose. O comunque lo diciamo, ma qui ci ha amato, scusa, ma ci ha amato, ma questo è qualche anno fa, te l'avevo letto, mi sa, sì, è quella che abita lì in via, lì via, e poi non mi ricordo, vabbè, vicino alle poste. Ci abita anche cose, ci abita, ma non ti dice, ma quella che ci ha problemi di salute. Ah, figlia, Caducci, hai già detto. Sì, quella lì, non l'ho più chiamato. Perché prima sono andati in due, abbiamo fatto lavoro, abbiamo tagliato, li ha tagliato, diciamo, un amico, un albero alto, alto, alto, senza due scimmie. Questa è una scimmia, dico. Tutti gli alberi abbiamo tagliato, li dobbiamo tagliare. Poi mi sa che abbiamo anche, no, tagliato, sì, bruciato no. E abbiamo fatto una bella pulizia, proprio, ci ha fatto dare i soldi lui. E poi sono andato io da solo a farmi quello che dovevo fare, mi sono fatto pagare. Tosti lo dai, mi deve dare tosti. Forse magari era troppo secondo lui. Io rispetto. Me lo sono tolti quei problemi. Vabbè, ma non mi ha fatti nulla. Non è che se non mi chiamano, non mangio. Mi chiamano e mangio pure più chitto non mangiano. Questa è qualche anno fa, io l'avevo fatto. C'è un bel di legna, perché quest'albero era un bel alto, adesso mi costa, mi sa era, come si chiama, eucalipto. Ma dove era? Giù, in campagna da lì. Sì, ma dove era? In fondo, vicino alla casa. Che cazzo, ma ma vabbè, che lì c'è la fondazione. Cazzo, alto, alto, alto. Tu pensa che quando, se non mi sbaglio, Luciano, quando andava a tagliare il ramo, è caduto sopra, e lì c'è ancora l'Eternit giù, no? E gli aveva mezzo rotta. Come ti vai? Purtroppo non dagli così. E gli aveva mezzo danneggiato. Ma non mi direi che era uscita. Infatti la voleva regalare, io stavo chiedendo chi la voleva questa legna. E tutti, cioè, organizzati, devi andare in macchina per i biglietti. E se no la regala. E infatti poi era venuto un amico a prendersi un paio di cassette. Eravamo usciti assieme. E poi il resto l'aveva regalata. Ma c'era un bel. Sì, ma legna che non sei già. Tu c'era pigliata, ma un fuoco. Vabbè, era un misto, c'era anche olive, poi c'era, mi sa che c'era anche mandorle, poi c'era melograni, ma se non mi ricordo, anzi, ti dico una balla. Sì, beh, ma adesso. E poi non lo so, c'era anche lei, scendeva pure lei. Tagliato l'erba, io avevo tagliato tanta l'erba, non è che. Da solo abbiamo fatto dei piccoli lavoretti, abbiamo fatto sistemare la motosega tramite questo mio amico, lo stesso c'era questa motosega bloccata e si usava per tagliare anche quella. E vabbè, niente, no, non è che, ma se faccio anche su Facebook ancora, vediamo. Grazie, si chiama Maria, grazie, si chiama. Ehi, bella. Ciao Clive. Ma come stai parlando con Motozappa? Con Michela. Ah, con Antonio Brettella. E allora, Claudio? Vabbè, Antonio Brettella. E allora, Spalpiero, come va? Adesso la moto non ti sentivo più. Io intanto risolgo, non so, vado sottoterra, poi salgo, poi scendo. Vabbè, comunque sei sempre Spalpiero e quindi. Ehi, sempre Spalpiero, sono nato con le ali, sono un po' senza ali. Io siamo alla Gerudi, siamo che abbiamo freddo pure, ciu. Ma è possibile, che tutti quanti anziani sono diventati in freddo, va bene. Grazie a te, due maglioni faccio, adesso me lo tolgo perché si è acceso il riscaldamento e si sta bene. Cazzo, ma ritreva, era un freddo. Ma io sì, c'era un po' di umidità, la verità, però... Vabbè, sono stato tutto ieri a Pantitella, forse dalla cervicale. Nulla mi stai dicendo. No, c'è freddo, cazzo, tanto là, non vedi, no, c'è freddo fuori. Guarda, io non lo soffro il freddo, però per me c'è freddo. No, là non è freddo, c'è molta umidità, freddo non ne abbiamo noi, però c'è molta umidità, io me ne accorgo perché a me l'umidità mi secca subito le ossa, io il freddo non esisto, l'umidità invece no, perché mi prende subito alla testa, alla sua, il naso, faccio, non lo faccio. Ma ne mi stai ascoltando? Sì, benissimo. Io sto ascoltando con una radio, con un Galaxy SSD, ecco. Ah, ok. No, vabbè, perché questa non c'era, l'avevo fatta l'altro giorno. Sto chiedendo, insomma, se va bene sempre, perché la sto tenendo sotto controllo, che era... Allora è una sistematina, a buio dei zanni. Ma questa cos'è? Non è un... Vintage, questa è una KF. Questo è il Trap, 430, eh. Ah, ecco, sembrava. Più vintage, ho tutti i dati. Ho tutti i dati vintage. Mi sono tenuto il Galaxy, poi altre due o tre, qualche altro microfono e la linea del 430, tanto un po' di sugridrato. Ah, quindi questo è un altro 430. Cosa? Quindi questo è un altro? No, sempre quello di 10 anni fa, non ho mai dato io 430, ho venduto sempre il 440, ricomprato i 240 che avevo, insomma. 430 non l'ho mai dato. Sono comprato una volta, ce l'ho 10 anni. Ne ho approfittato, appunto, che avevo un po' di tempo per restare a riposo. Da Farato l'ho mandato a dare una sistemata, tanto l'ha messo male, mi hanno cambiato tutte le cavetterie interne, sai, tutti quelli spinetti, quelle spinette, il circuito stampato era completamente senza saldature, era tutto pieno di falsi contatti. Vabbè, normale, già lo sai che nel tempo sono che si aprono, quei cavettini di contatto si oscillano tra un capo e l'altro. Radio vecchia, se devo tenere efficienti è quella, se no devi ogni anno ho cambiato la radio, e anche quella di 5 anni diventa poi vecchia. Non so, però vedi, questa nonostante gli anni non mi ha mai creato problemi grossi, è stata sempre funzionante, però per farla funzionare bisognava prendere a colpi, capito? Mentre per dire il 440, sai che difetto fa, e ogni 2-3 anni dovresti mandarla a fare il VCO. Questa mai nessun problema. L'ho mandata io perché era pessima, nel senso che insomma voleva data ma una sistemata, e l'ho fatta fare. Adesso finalmente è tutto a posto, adesso durerà altri 10 anni. Beh, ma quello radio dura, i componenti allora erano buoni, magari non ti durerà 10 anni da adesso in poi perché i componenti di oggi non sono più stessi, però prima quando costruivano un condizionatore lo costruivano a via. Infatti me l'ha detto il tecnico, mi ha detto che non ha sostituito niente, qualche fesseria, qualche cosettina che si è accorto che era in perdita, ma niente di che. Mentre la parte appunto di spinette, tutte quelle cose lì erano completamente ballavano nei piedini, nei tutti, quindi mi ha messo tutta la cavetteria nuova, tutte le fascettate, tutto insomma, ha messo a posto un tour. Gappa. Avanti tu. C'era Daniele che stava provando il 60 club, però vabbè, gli era arrivato un po' Antonio, gli aveva messo in posizione in e 50 ohm. Sì, sempre in posizione in 50 come questo, poi ripeto, bisogna vedere se il microfono o se la radio che non spinge, perché io Daniele lo sento molto bene, però non spinge come deve spingere, tieni conto io, le stesse posizioni sono quelle del 60, però io ho il Mickey Green neanche a 2, era 2,5, ieri il Tino me l'ha fatto abbassare, ce l'ho a 2, io non so lui come tiene il Mickey Green, ma il 140 se non ha quei 2-3 lavoretti che ci sono da fare non spinge, di metterci il microfono che vuoi, capito? Mentre il 430 e il 440 sono nati già spinti, non c'è bisogno di toccare niente, o sbaglio tu? Sì, oddio, il 430 non tanto, il 440 si può dire di sì, no, ma poi al 140 sono due giochini, però io l'ho sentito, non è che non sia amplificato, si sente l'amplificazione, perché comunque si sente anche il rumore della stanza. Non ha, come si dice, quel tocco che ha il K. Infatti io lo so perché è così, secondo, insomma, se per dire l'avesse preso da me io quei lavoretti li ho già fatti, quindi spinge, però secondo chi l'ha preso, che non l'ha mai toccato, vuole dare una qualche ritocchino per spingere un po' di più. Questa già spinge sempre originale, c'è anche il fatto originale, mica c'ha 100 watt in AM, questa è originale, questa c'ha 35 watt in AM. Sì, ma hanno una modulazione diversa quelle radio lì, mentre il 140 se non gli dai quel tocco più di LC non riesce a dare quella grinta particolare. Sì, anche perché lo sai, no? Quando l'accendi devi tenerla a un'ora prima di iniziare a parlare per avere i vattisciui, mentre il 430 e il 440 no, il 430 e il 440 li accendi, li lasciati a 20 watt, e a 20 watt sono freddo, quella no, perché sono tre conversioni, 140 e 70 sono due conversioni, quindi cambia totalmente, però ti ripeto, se non le fai quel lavoretto per farla spingere un po' di più, non cammina. No, non ho sentito, mi ha mandato un messaggio con le foto per vedere se era giusta la posizione del 60, gli ho scritto sì, lui, però no, non ho sentito ancora Daniele, so che doveva arrivare oggi. Bianco, un secondo che vado a fare una commissione, torno su. E io, va bene. Mi sto occupando dei vostri, sta un po' scolato un attimino, perché stamattina non sono voluto uscire perché mi è mancata l'acqua, ma come è rientrata? È tornata alle 2, mi sono lavato, però mi sono giambato. Uscire a fare una commissione, porta questa stronza, me lo dè. Saluti a Claudio, dov'è Mussi? Dite, dov'è Mussi? Capite? Mussi, dov'è Claudio? Dite dov'è Mussi? Dov'è? E dite dov'è? Mussi, dov'è? Che va? Che? Voglio la mamma, stella. Perché cosa? Non vado d'accordo con i gatti. No, non ero qua d'accordo, ero anche con Mussi qualche picchiata. Oppure se magari prende il televisore pecore, cani, smona baggiami. E sta sempre. Perché se non c'è niente, devo spegnere il televisore e continuare a stare. Va così, fatti di ossa, mia. Chi è? Vado via. Ma salutati Claudio, va, ma saluti. Chi è? Mucci, sì, riesci, vai, non ti voglio più, va. Poverina, aspetta. Via, e vabbè, a piovere, spero che abbia smesso di piovere. Comunque è cresciuta un bel, da quando l'hai vista l'ultima volta, è cresciuta un bel, e rimane così sicuramente. Con i grandi in casa no, non mi piace, ma è piaciuti. Così piccolini è ok, ci sta. E lì sarà la prima e l'ultima, guarda. Ma è ok, un domani mi andrò a vivere da solo, io lo sa. E forse, sicuramente, un altro cagnolino me lo prenderò. Ma questa volta mi prenderò un Pinscher o l'altro, io ci uovo. È di un beautiful. Ma i grandi in casa no, mi sono mai piaciuti. In campagna ok, vabbè, ci sta. Sopra di me che sarà via due mani dentro casa, no? Quanti vado non ci compresi, no, come fai? È un casino. No, cani grandi a casa no. Rimedi a taglia, non è molto grande, però già è un grande impegno tenerlo a casa. Infatti non vedo l'ora di trasferirmi qua. Sta meglio lui e sicuramente sto meglio anche io. Senza dubbio. Stavi riposando? Sì, lui sempre dopo pranzo. È dall'una e mezzo. Ecco, ripiatto nel lettino lì, sotto la TV, è coperto col bled, si vede solo lunga, buttate dentro la luci. Oh, tu dico, sei riposato? Sì, mi sono riposato. Ma il divano, io non mi collego nel letto, sennò poi non dormo la notte. Il divano, guardando la TV, mi dà maieggio, ma così, dormi sveglia, eh? Mi sono riposato lo stesso. Poi c'è la mamma, mi arrivi da leva, che non mi sono pisato subito, e mi sono andato subito in bagno a lavarmi, subito, ho perso il tempo, poi mi sono fatto una lavatrice che mamma non la sa usare, ormai che si è imparato un po', da, che non la so più trattare la lavatrice, mi sono lavato le cose più, quelle che uso spesso, magliette, slip e jeans, però non la posso stendere perché se piove, è un casino. Lo so, la pioggia è una rottura di balle perché non ti fa fare le cose che devi fare, ma ci vediamo domani, così amici. Ancora rientrateci. Aspetta un attimo, ok, mi devo buco una roba. Ciao, attrice, ciao, di voce. Sono qua, eccomi qui. Ehi, ehi. E quindi niente. Ah? E quindi cosa mi dici? Cosa mi dici? E cosa ti dico? Senza parole, sì. Niente. Noi che ne abbiamo cavoli a questo periodo. C'ho qualche straccio così di tempo, mi siedo un attimino qui, ma ci ti mando la foto, c'ho già accampato, sono accampato. C'ho ancora i muratori, che tra l'altro non sono assistiti dal tempo perché stavano finendo il caveio, che entrava acqua, quindi hanno impermeabilizzato, fatto, c'ho due dì che lo combina nuda. Ma qui ti sei trasferito? No, ancora no, ancora sono qua a Carbonazzi. Infatti mi sembra abbastanza un segnale, pure mi sembra questo. No, sono sempre quanto. Sono ancora qua, penso di per fine mese, i primi del prossimo mese, non lo so. Dipende da loro quando si tolgono a mezzo piede, perché poi c'è andare a pulire, deve entrare in presa le pulizie, che in presa le pulizie, oddio, è la mamma di mio genero che ha una vita di pulizie, capito? Aspetta che rispondo al telefono. Eia, fai. Vabbè, Michella, visi. Eia, qui sono. Allora, ho detto mandami la foto del connettore che non riesco a capire come è fatto. C'è il telefono? Sì, l'ho preso. Però una volta me lo sono portato appresso. Allora, dovrebbe essere questo qua il caricabatteri, vediamo. Ma questo non è. Mi incazzisci da avrei anche dato uno, ma non vanno bene, se va bene qua trovo, ma non va bene. Aspetta un attimo, tu. Mi sono spostato, l'ho lasciato la porta, no? E se va bene qua trovo, non interessa. No, l'altro no. Allora, mi tanto in gorra. No, Lucio, ho detto di mandarmi la foto del connettore che si riva a te per il computer. Ah, io pensavo di alimentatore, hai negativo di un buco, che esiste, comunque è verde, Antu. E dove l'ho messo? Una parabola, non so dove l'ho messo, Antu. No, forse l'avevo messo qua. No, ma neanche. Ehi, tu non accogli giù, ti accogli giù, va, vattene. Questa deve essere qua. Me nomi. Aspetta. Mia gazzino. Stai lampando, ma come ne ho preso una metà? Ecco qua. Aspetta. Cioè, mi veniva fregato. Questo lo mando. Eia, vedi così io cerco, magari sai qualche altro computer c'ha il connettore uguale, magari cambia la spinettina dello stampato, ma quella gli metti quella. Non la spinettina. Il connettore, quello che è, ma direttamente sullo stampato è saldato. Sì, con i piedini, sì. Allora mandami la foto, dai. Te l'ho mandata tanto. Quella è dell'uscita. Quello delle cuffie è buono. E sono tocca a prendere una di quelle USB audio. No, questa è delle cuffie. L'altra è del microfono. Questa è delle cuffie, l'altra è del microfono, sì. Ah? Però sono c'è attacchi uguali. Comunque, questo faccio una prova. Metti, fammi la fotografia a Cabin Giosso. Ma ti è arrivata a Cabin Giosso? No, mi hai fatto la foto vista lassù. Voglio vedere i contatti. Non è che li vedi bene, aspetta. Vabbè, non mi interessa, ma li vedo. Se sono a X, a Croce, a T, a Stella. Ma se guardi bene ne manca uno. Comunque te l'ho mandata, niente. Sto mandata la parte di su e la parte di cosa. Guarda il telefono. E se guardi bene ci faccio dietro, alla fine ne manca uno lì. Perché si è piegato. E poi ai fianchi lo stesso c'era uno piegato. Adesso non lo vedo bene, aspetta. Vabbè, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5 sono. No, 6 piedini sono. E vabbè, dai. vedo un po' se te lo recupero. Allora, dobbiamo avere l'incasso, devono essere quadrati, non rotondi, l'incasso che va davanti, ci sono quei due buchi davanti, dove una volta che lo inserisci, no? Nelle saldature, ha un incasso per rimanere fermo lì. E sono quadrati, non rotondi. Ma io ne ho schede, però non vanno bene, nulla. Anzi, addirittura ne ho disaldato uno, convinto che fosse quello, sono riuscito a disaldarlo con l'aria calda, sono andato via bene. È poco a poco più largo, ma non va bene. Vabbè, l'incasso della plastica glielo puoi sempre incollare dopo, l'importante è che corrispondano i piedini quelli dove va lo stagno. Vabbè, poi si sa recuperarlo, poi già è mancato già me lo disaldo io, tu. Ehi, dai, io adesso te lo cerco, guardo un po' in campagna e vedo tutti quelli che ho, se ce n'è uno di quella marca, poi vedo un po'. Allora, Estensa ce l'ho già io, uguale, no, Estensa, sì, cioè, è di quella marca lì, però è diverso il connettore. Perché sono dei bastardi, cazzo, in ogni computer ne mettono uno diverso. Comunque io ci ho fatto la prova nel caricabatterie ed è questo che ho messo adesso del tablet, tanto, questo qua. Poi adesso lo devo mettere da parte, così mi ricordo che è quello. Io non potrei prendere da AliExpress, costa cazzo 5 euro, ci metterà 20 giorni ad arrivare, ma non me ne ha fatto nulla. Tanto non è che... Tu, se vuoi io ce l'ho, te lo do da 5 volte, ne ho uno, due, mi pare. C'è anche il cavetto, però lo spinotto è più piccolo, ma te lo do e glielo cambio lo spinotto, vai, glielo copro e glielo cambio, te lo do e ti arrangi, non so, a me te lo faccio io, non è un problema. Non ce n'è spinotto lui, là ve lo compri qua lo spinotto. E poi cercano da... adesso, non ce l'ha Fusaro. Ma cosa cazzo va Fusaro, che non va manco lo ci va più niente? Adesso, io non ne ho, travidato, non ne ho. Aiuto, questo non va bene, più grosso, per questo ha creato questo qua. Non andava che più grosso ma stessi. Io queste B, queste sottilano, va bene. Però l'unico che va bene è quello. Che mi avevo fatto un tablet a riparare. E infatti poi cosa ne hai fatto? Mi sa che si era rotto il connettore, non so cosa avevano fatto. Comunque abbiamo attaccato l'alimentatore a 12, c'era dai cinesi, siamo qua l'alimentatore, come gli ha inserito, l'ha attaccato, puff, dice non accende più. Cazzo, no, poi c'era il... come si chiama? Quello integrato quadrato, no? Quello lì che c'era nella scheda, bucato. Chiaramente. No, vabbè, magari ce l'ho pure, vedi, buttato da qualche parte qui. Ne ho 40 scatoloni qui, però niente, preferisco trovare magari uno, ma neanche i cinesi ce l'hanno giù a Predanietta. Vero, ehi, prova a vedere un po'. Vabbè, guardo lui, cosa ci vuoi fare, non è che... Hai visto quel quaderno che ti ho mandato? Quello è un quaderno qua dentro, lo usavo in seconda io. Quel quaderno deve ancora crescere. Devo ancora scrivere per farlo diventare un quaderno serio. Però questo quaderno è a quadretti, il tuo è a righe. Ah, il tuo è, vabbè, di quelli piegati, dai, quelli che giri la pagina e si aprono. Di quelli senza fuori. È vero, aspetta, tu ci manda tu lì, allora, aspetta. Bene, cazzo, vabbè, lo sono andati in buco, ma a me. Dove vai, chi tu pure, tu, a me, aspetta. Ci manda anche questa qua la foto, ma ti piace che a righe lo stesso. Questo qua, che a righe, no, questo è a quadretti lo stesso. E poi, ce n'è uno qua, e lo stesso a quadretti, mi devo qui. No, anche quello lì a quadretti. È vero. però è un casino, tu lo sai. Capisci a me che quel quaderno lì non va bene che rimanga qua. Tu cosa ne dici a tu? Sono sempre i soliti problemi. Infatti, soliti problemi. Soliti problemi. Sì. Vabbè già. Già sono sempre qua comunque. Ma cosa ci vuoi fare? Cambierà. Capito a tu? Non so se è il primo messaggio che ti ho detto. La maggior parte, tutti da lì. Piano piano. Ah, tu riesci a fare in un mese, e uno. vabbè, non c'entra niente, non è un po' che su che può. Adesso cose belle, dai. Alla fine. Che è questa nuova alternata? Sente qualcuno con l'alternata? Ma ma si è sentito un secondo e basta. Ma questa è più amplificata la mia modulazione di quella di prima? Sì, sì. Ah, quindi si sente che è amplificata. Ma questa è bella, ma qua fa che uscivi bene lo stesso, no? Che non uscivi bene. Perché mai parlavi da lontano? No, vabbè, questo qui è l'M300, se l'M300 è una favola. Eh sì, io ce l'avevo, lo sono venduto, avevo tutto sistemato bene. Non mi ricordo da chi l'avevo comprato, me l'avevo dato, boh, non mi ricordo. Le saldature fatte male, sistemato bene, era perfetto, me lo sono venduto, a fanculo a me. Vabbè, anche io ne ho venduto tanti, poi me li sono ripresi. No, questo qui me l'hanno dato, avevo preso tempo fa delle cose, ma era dentro un pacco. Il Tuganto col stracciato, con i cavi della batteria stracciati, gli animisi, e ha funzionato. Era così, forse non sapevano neanche che valore avesse. Sì, sì, ho visto, è abbastanza nuovo. No, esteticamente è nuovo, nuovo avanti e dietro, si vede che comunque ce li ha i suoi anni, comunque fa 30 anni questo, eh. Mica, che cazzo l'avevo dato, non mi ricordo, che avevo venduto, 300, poi avevo uno mio, stato mio fratello tanti anni fa, era nuovo nuovo lo suo, l'avevo venduto insieme, e dici, vattene a cuccia, l'avevo venduto insieme al... aveva avuto il lineare che c'aveva nel furgone di Pier Andrea, lineare da 400 watt in barighiera, vabbè 300 e trovato 4.500, non mi ricordo che l'aveva venduto, mi pare 200.000 lire, 300.000 lire l'aveva venduto. E qui ci sono ancora altri due o tre microfoni in questo ripiano. Che è una buccia di cazzo, ma funziona quello del Mobico? E di Christian? Cazzo, io ce l'ho, non riesco a farlo andare il mio. L'ho prestato ed è morto. Volevo mettere uno, passo, vediamo, già accendiamo le connessioni, uno normale, perché quello, se ho messo quello con la rotella, tu, quello con la batteria da 1,5, ma non rende. Io a Cristian gli ho messo il... qual è? Il... quello col tastino giallo. M93? M93, sì, quello brutto col tastino arancione. Ce l'avevo io quello verde del 48. E ha voglia il microfono. Ha voglia. Cavetteria, E poi io altro qua, già ne ho, qualcosa già ce l'ho pure io. Poi l'altro, quello di questo mic baracchino qua, ha funzionato per un paio di giorni, poi si è rotto, boh, la capsula non va. E ce l'ho lì. A proposito, tu ne hai di capsula tu, di quelle rotonde alte? Ma capsule di microfono dinamico? Eia. No, di quei microfoni originali no, sono tutti microfoni funzionanti. Aspetta, ce l'ho lì, aspetta. Quelle difficilmente si rompevano, ma quando si rompevano rimanevano rotte, perché non se ne trovavano. No, ma infatti l'ho misurato col test, niente. Non fa. Ce l'ho qua, mi basta. Mica sta di un buco. Cioè, vabbè, quello verdolino del mobile, l'ho aperto qua. Non so che cazzo l'ho messo. E non va più. Comunque la capsula che non anda. Sì, vabbè, ce l'abbiamo in culo. Hai provato a mettere un altro tipo di capsula? No, tanto, no, non fa, no, no, sì, non ne ho, ci ho provato, ma non spinge. Ho capito. Vabbè, non mi interessa, mi dato lo X, l'MB+4. L'MB+4? MB+4, ma però, cazzo, andiamo bene, cazzo. Ma stavano messo, a me piace tutto quel microfono a tavola, cazzo. No, lo voglio rimettere a loro, chi pesa, tu? Cazzo, ti mando la foto. Hai inventato di quelli a dietro? Cazzo, a dietro, oh via. Andiamo pure, andiamo. Vedi, anch'io ne ho uno di quelli che facevano 30 kg, quelli vecchi, infatti ce l'ho giù sotto il bancone, con i cavi che arrivano su, perché pesa 3 quintali. A te credo di Nicola Tribilda, ammazza, pesa un bel, minimo peserà... adesso 20 kg, sono di più puro, tutto il rame, mi sa che me lo vendo, c'è il coso dentro, il trasformatore non è grosso, ma non è, c'è tutto il rame lì, vero? Sì, questo è quello che taglio, ce l'ho avuto anche io anni fa, questo modello qui. No, è un problema, anche se scendeva di coso, di volte, non so se era il trimerino che era mezzo danneggiato, non lo so, comunque adesso non l'ha più fatto, lo sto usando da un po' di tempo, è perfetto. Quelli lì, in realtà tanto vanno revisionati. Sì, vabbè. Questo va praticamente lo stavo smontando, non mi ricordo per che cosa. Poi mi si è attaccato un filo e non riuscivo più a farlo andare. Allora da Franco, che poi mi ha detto che avevano problemi, che era un problema di finali, quelli che c'ha dietro, come si chiamano? I finali di potenza sono quelli, i 2N3055 o 3771. E vabbè, comunque niente, ma poi vabbè, sono andato a Fabrizio, era riuscito a farmelo partire, cioè è riuscito a farmelo partire, e da giorno lo sta sempre funzionando. E quindi o si fotte un finale oppure l'LM324, che è il integrato regolatore di tensione. Tanto finché va lo tengo, il giorno che se va a farsi benedire mi compro quello dei cinesi di nuovo, faccio la modifichetta come ho fatto all'altro e mi metto quello. Cava, no, io ne ho uno che è della Telecom, che mi ha venduto Tino, che lo uso per l'HF, poi ne ho uno che avevo preso dai cinesi da 50 A, che gli avevo messo anche gli strumenti, e poi c'ho quello da laboratorio. E che stavo mettendo le copertine al cane, e poi li bocco per accendere di bocca. Oh, che giramento di balle di cane va. Guarda, ne vedi casino gli strumenti. Icchia, sei tanto anch'io ancora. Beh, se ti sei a tu, se servono. Quello cos'è, quello col televisore, cos'è quello? L'oscilloscopio. Ah, l'oscilloscopio, mi veniva il nome, è vero. Cavolo, e gli altri invece alimentatori sono quello che c'è su, cos'è il frequenzimetro? Su è frequenzimetro, quello di sotto è un altro frequenzimetro, una frequenza più bassa, alimentatore 0,30-20 A, poi c'è generatore di frequenza e poi ci sono altre cose nel lato, ma forse non te le ho fatte tutte. Ma con l'alimentatore volendo si può utilizzare per misurare in LED anche quello della TV? Certamente, questo fa 0,30 V, 0,10 A, regolabile in tensione e in corrente. Allora tu, io i LED della TV li misuro con una batteria da 3,7 con una schedina, da un chip, con cosa regolabile, una tensione regolabile, da 4 a 28 mi pare, e me la accende la striscia LED. Sì, perché quello è uno step down. Ma ci sapete quanta tensione ha bisogno, più o meno, non di più di 28? No, ce ne sono a 30, a 48. Ah, ecco, infatti me ne serve una a me che sale da... vabbè, poi bisogna vedere, magari solo la bruci. Comunque c'è scritto sopra, no? Ma in teoria no, però basta che la provi. Parte con la tensione bassa e lui vedi quando si illumina, no? Infatti, anche così posso fare. Sì, no, ora questa cosa qua con questo chip che ho messo, la batteria a tema, le accende tranquillamente, senza problemi. Sì, perché ci ha messo uno step down, praticamente gli dà un ingresso basso e ti eleva la tensione. Esatto, sì, e mi aiuta molto, non molto, di più. Poi, nel caso che non me l'accende, allora faccio un altro giochettino nella striscia LED. Però le volte prima cosa va zio, non lo sapevo, ne bucavo tutte quelle specie di plastiche che ha sopra, no? No, ho capito. Cosa facevo? Me lo misuravo col tester, a 1 a 1. Quella che era bruciata, allora facevo il ponticello. E mi ha detto, cosa faccio? Grattugio i fianchi, ogni LED, così se non me lo segna, quelli che si accendono li lascio, non li stacco neanche quelle cose in plastica, invece gli altri, c'è qualcuno bruciato, glielo levo e gli faccio il ponticello. Ma tu stai dicendo la lente? La lente. Ah, quindi praticamente, no, bastava grattare nei lati, no? E lì, anche col tester, se vedi che non conduce, è come un diodo. Esatto, infatti faccio così, con la punta del tester, gli rigratto e mi misuro così. Si conferma. Andiamo e andiamo, alto, chiacchiere, andiamo e andiamo, ma però... Oh, yeah. Lo devi. Ma sono cose belle, là, già mi diverto ogni tanto. Cose belle sono quando sono senza mutande. Quella ancora di più. Ma diciamo che magari sono un ragazzo stressato, no? La vita mi impegna un casino, mi impegno e passo il tempo. tempo e non penso a niente, sto che sto facendo un lavoro lì e la verità sono tranquillo. Ma è anche una cosa buona, è un modo per tenere la mente allenata. Te l'ho detto, se entri qui ti metti le mani in testa, tutti i sughi per. Ma ho ancora strumenti sparsi per lì e per là, negli armadi, ne ho qualcosa in campagna. Davvero, c'ho roba che non so neanche più di avere. E tu, me lo posso immaginare, perché tu quando facevi TV ne vai a Bizeffa e poi vabbè, come si dice, ti servivano questi strumenti qua. Ma sai cosa mi è successo da poco, tu? Praticamente, vabbè, ne avevo già piantato una di antenna lì, vabbè, qua in zona. Poi mi ha chiamato questa qua, ciao, mi ha dato il numero, ma insomma qui gliel'ha dato, vabbè. Sono, vabbè, dimmi. E mio marito ha piantato l'antenna, però non ho dei canali. Sono andato, lì andate dolci a me. E cosa ha fatto? Praticamente l'ha piantata così. Siccome davanti a lui c'è una casa e devo uscire un po' col palo, se no non prende il segnale. Sono andato con uno strumentino, io l'ho puntata e mi ha fatto da 20 euro. Hai fatto bello, insomma puntavi a lei e non gli chiedevi niente. Per carità, no, meglio puntare l'antenna. Ah vabbè, questo è dei gusti. Oh no, lascia perdere. Dei gusti bus, non si incula bus. Questo con lo strumentino, se non lo uso, mi aiuta molto, visto che lo strumentino la vita da 15 euro. Beh, ti aiuta sì. Io avevo quello grande che faceva sia il digitale terrestre che non lo c'avevo più. E non devo prendere uno per le parabole, ma non me la fatti una lì, va a parabole, mi interessa. Ma io ce l'ho, sì, ce l'avevo sia per le parabole che per le... No, non trovo più, chissà che cazzo di fine ha fatto. Adesso lo sto iniziando a sgobbare qui in cantina, prima o poi lo troverò. Vabbè, quello grande grande l'avevo venduto, quello della Una Home, l'avevo dato. Mi è rimasto quello così, da... come si dice... Ho visto uno, quello piccolino che venivano con la bussola, uno l'avevo regalato a Giulio. E io c'ho quello piccolino con la bussola, sì. Beh, quello l'avevo dato a Giulio io, per le antenne satellitari. E vabbè, comunque già mi aiutava un sacco. Io molte volte mai sono dove sono, però mi la piazzo bene, mi metto in posizione, mi metto uguali, no? La posizione è uguale, poi se mi devo spostare, poi come vedo che l'altra mi dà il segnale, la prima, non c'è bisogno che l'altra, vabbè, comunque la provo comunque, sia la V che la U. Le provo entrambe, e poi vedo che è a posto, la blocco, poi faccio i collegamenti, via, poi vado, faccio la scansione, come vedo, sotto di canale, arrivederci e grazie. Vabbè, anche perché sono i satelliti, ormai i satelliti, i punti ripetitori sono spostati, non sono tutti e due nella stessa linea, quelli delle TV private e quelli del primo e del terzo canale. Bianco, un attimo, Lu, che vado, perché mi sono, me la faccio addosso. Vai, va. E beh, là, ci sei. Break? Avanti. Ciao Lu, che è questo rumore che ci sono? Beh, lui è in banda. Tu eri? Sto facendo una prova, là, per vedere quanto saliva lo smitter. Cosa vuoi te? Cosa c'è? C'è Antonio, ragazzi, sta arrivando, dai. Come rientra Antonio, mi sposto io che esco. A me stai dicendo lui? Allora che sto dicendo a te, allora. Ho capito Irene. No, come arriva Antonio, mi sposto e ci dà l'idea. Ah, ho capito. Ma non c'è nessun altro? La Claudio, forse ancora al telefono. Ma Muros o Sparviero? Sparviero. Spartivento. Claudio, Fragilvento. Spagliero, come lo chiamava Walter? Spagliero. Spagliero. Sparviero. E poi l'ha mai compreso cosa vuol dire Sparviero. Ho bisogno di Sparviero. Sì, ma pagoso da Sparviero. E poi va via bisogna manna, robe. No, dico, da Cantania, sempre Sparviero si chiamava, l'hai conosciuto, l'ho conosciuto molto prima di me. Voi li so conosco prima di te. Tu quanti anni ci sei frequenta, Romè? Io lo conosco dal 2004 a Claudio, quanti anni sono? 17 anni tra poco, a fine anno, dai. Cazzo ci sono da allora. Aspetta, proprio io entravo così, perché c'eravamo a casa mia fratella, da 90 mi pare, no. 90 o 92, se non mi ricordo, forse 90. È sempre Sparviero si chiamava. Sì, infatti prima che avevo sentito era Gianni, Claudio mi sentiva, non mi sentiva, vabbè, quando entro a casa c'era di mio fratello la PLC 1000. E 90 mi messa. Sì, poi vabbè, non potevo più entrare, poi mi sono fatto una station, un'altra sul tetto, mi disturbavo, mi tagliavo il capo, mi sono arreso, mi ho giunto tutto, sono passati un po' di anni, tipo adesso 8-10 anni, ho di nuovo riattaccato tutto. Fai i conti, no? 30, una trentina d'anni sono. E gli arrivi c'erano sempre Gianni Doppio Rum, Giulio, Gian Maria, quelli sono quelli anziani, dai. Sì, sì, Mario Mau, Vito Luna Rossa, poi Torre Alan Verde, poi c'erano tanti, Papirino, Falcone, tanti. Avanti, altro ci sei. Nasu. In culo. Quel feroce Maconio Condor, ce ne sono tanti comunque, tanti robe, tanti sono deceduti, l'ultimo che è deceduto è Bacchisi, non so se l'hai mai sentito. Sì, qualche volta l'ho parlato, infatti mi dispiace, e dice è stato male. E cosa c'era a Capri? Cioè, ci parlavate con Capri all'epoca? Io no. E Marco, questo qua che ha parlato adesso, questo tipo di spiaggia, avanti Marco, tu da quando vi sei? Dall'estate dell'84, però ho interrotto dal 94 in poi fino al 2010. E come mai? Calo dell'interesse, sai cos'è? La greffetta che avevamo poi si è sciolta in radio, tutti coetanei eravamo, e quindi niente, non... poi l'antenna qua, io avevo gravi perdite. Abitavo già qua, ma avevo una boomerang e 50 metri di RG 58. Mi dava tanta rigola perdita che non conveniva nemmeno usarle. Uscivi solo col cavo tu? Sì, un pasticcio era. Adesso un cavo grosso 5 ottavi, però lo stesso sono un po' demotivato in tutto. Oh, un saluto a tutti, sono entrato a gamba tesa, come sento Falcone e mio amore, non potevo non entrare. Dai, io sono in cucina e sto facendo roba. Vi saluto e vi ascolto. Sì, comunque roba, tra una cosa e l'altra, una trentina d'anni ci sono. Però vabbè, ripeto, sono stato fuori 10 anni, però la passione ce l'ha sempre, che tuttora ce l'ho, non è che mi manca un computer o il telefono di ultima generazione, però anche io mi è sempre piaciuto. Ma sempre lì eri lui, da un'altra parte? No, qua, no, e lì ci sono 6 anni. No, lì dove abiti adesso, la casa tua di tua mamma, sempre da lì trasmettete? Sempre da qua, certo, ci sono 47 anni qua, 46 anni anzi, io faccio sempre un anno in più, vabbè, sono entrato nel 47esimo anno. Dì la verità che il regolare è modulato da casa di Falcone. Sì, anche, usiamo il suo naso per il microfono. E poi non so se tu li hai conosciuti, vabbè, Falco Blu, poi c'era Marcello, c'era... tu cugini sono così altri. No, Marcello non l'aveva modulato, Francesco. No, Marcello, patrono di Coso, era demattore anche lui. Di... ma, non mi ricordo il nome adesso. Ah, Marcello e Maurizio, i miei cugini, sì. Marcello e Maurizio, poi c'era Marco De Ida, Silvia Splendida, e Roberto Bandito, vecchi, ti ricordi? E io, sì, non ho vanta. Adesso la concessione l'ho fatta nel 96, mi pare, ce l'ho ancora qua, la prima concessione. E Antonio invece la danno visì. Ciao, io ci sono praticamente dall'86. Quindi sei di vecchia data tu, cazzo. Vabbè, quando c'era un po' di movimento in frequenza, va un muscio, dai. C'è stato un boom intorno agli anni 2000, magari, come quando sono entrato io nel 2004, c'era un po' di gente, poi piano piano è scemato tutto, poi è ritornato l'anno scorso col Covid, anche molti da sottoterra, e poi va peggio di prima. Diciamo che io praticamente è stato un caso così, perché a me piaceva, quindi mi avevo comprato questo CB così, lo collegavo con un antennino, poi ho scoperto che Marcello, mio cugino, il padre negli anni 70 modulava, quindi abbiamo espropriato le cose sue, qualche antenna, abbiamo iniziato così e poi da lì è partita la passione. Diciamo all'epoca poi i canali erano tutti intasati, c'era un sacco di gente, confusione, afferrature, adesso almeno quello sono scomparsi, dai, perché vabbè io non li ho conosciuti in quei periodi, perché ripeto sono entrato nel 2004, il primo che ho parlato è stato Luca, il primo che ho, c'avevo un, e c'era ancora uno di quei portatili della Intec, che l'Handicom 50S con i 40 canali con l'antennino in gomma. Ho chiamato così Brecco e mi ha risposto Luca, ti sento piccolino, piccolino. E dove sei tu? Dove stai trasmettendo? Ho detto zona quadrata. Allora, siccome c'era Roberto Meccanico, perché ad identificarmi da lui dice, ah, mi Roberto Quadrato, e da lì mi hanno messo Quadrato. Ho capito, vabbè, io non vorrei essere vanitoso, però congulavo solo con ragazze, quando sono entrato i primi tempi. E con me parlavi anche, orecchione. Ma chi non era, vieni là, che tu eri già un pezzo grosso della frequenza, per parlare con te bisognava chiedere il permesso all'ufficio compartimentale di Cagliari. Ciao Robert, buonasera a tutti, scusate che ero al telefono, non potevo rispondere se mi avete chiamato. Ciao Claudio. Ti abbiamo richiamato in frequenza, ma non ci vedi, perché ho detto che era al telefono. Bene, riprenditela pure adesso, dai. No, no, faccio riprendere Roberto, che stavo raccontando. Riprendi. No, stavo parlando poco fa, quando non c'eri, mi ha detto c'è Claudio Luca, diciamo, io ho detto Claudio Torre del Controllo o Claudio Muro, ho detto no, è Sparviero. Infatti ha detto, ma Sparviero, da cosa ne esci tu, che il suo nome? Che te l'ha messo a te, Claudio? Io nel 1974, io sono stato sempre Claudio Sparviero, da quando morlavo a casa di mamma, la Porto Torres, così, non è Sparviero, non lo so, è un nominativo qualunque come tanti altri, mi piaceva, e quindi ho messo quello lì, nel 1974, sempre quello lì, Claudio Sparviero, non so da cosa è nato. E tu Antonio invece? No, a me me l'aveva messo Emanuele Silo 2, perché avevo io la macchina con l'impianto a gas, e quindi l'ho sempre in riserva di benzina, e dice, ma sempre in riserva? Sì, no, me ne siamo andati in riserva. Ah, no, è vera quella storia, l'avevo sentita questa storia, però pensavo fosse una leggenda metropolitana, invece Luca invece ancora non si può negare il numero attivo, Luca Manico, mio Luca del Monte, Luca ci sei? Vabbè, io sono da attimo in fatto di chiamare, poi Claudio manicomio, a chi va sempre il casino, e chi tu mi chiama così, che tu mi chiama, ma qua devo ti chiamarmi, poi ci mettimi Luca e vabbè è uguale, dai, non cambia, non mi cambia. E infatti mi sa che ci sei tu, l'altro poi c'è Luca Flipper, ma non è che entra spesso. E io ti ho sempre chiamato Luca, diciamo gli animati, ma io chiamo tutti per nome, raramente, per dire, quando c'è Muros dico Claudio Muros, basta, anche Claudio Torre di Controllo, chiamo così a doppio rumolo, stesso Dio, sempre chiamati per nome. E cosa, ve lo ricordate, Roberto Meccanico, che fine ha fatto quello lì? Roberto Loriani, e ogni tanto ci vado, quando devo fare qualche lavoro alla macchina, e avevo messo le pastiglie alla 147, no, non c'è più niente, se va bene. Tutto. Io Robert, per la cronaca sono sempre Claudio Sparviero, torre di controllo me l'aveva messo Giovanni Camposanto perché modulava molto nel canale 5, allora, ai suoi tempi, rompevo le scatole ai camionisti e quindi mi aveva messo torre di controllo, ma il mio nome è Claudio Sparviero, se mi chiamate Claudio è anche meglio, se non mi chiamate per niente sto bene lo stesso. Va bene, ripeti, sconosciuto. Sì, grazie. Luca si chiama Perivella, vabbè, capito, non si chiama Soldatino, non si chiama, si chiama Luca Perivella. E adesso ogni tanto contendo che sono fatto di Perivella, ma dove è uscita questa storia, Luca Bicicletta, Luca Perivella? E lui lo dice, non lo so. Certo, è questo Roberto Quadrato è curiosino, eh. È già un grido. Invece di essere carrozziere dovrei essere barbiere, cazzo. Ma davvero, sei più curioso del mio barbiere. Anche i barbieri curiosi sono. No, no. No, buccia, eh. Guarda, Robè, quelli che sanno tutto di tutti sono i barbieri, gli spazzini, capito? Gli operatori ecologici, se no li offendiamo. I barbieri, gli operatori ecologici, i fruttivendoli, capito? Quelli che lavorano al mercato ortofrutticolo e al mercato civico, quelli sono quelli che sanno tutto di tutti. Se però ogni tanto si guardassero anche loro, forse fanno meglio. Adesso si sono aggiunti anche i proprietari dei circoli. Allora, la ricetta l'ho trovata, quella del 94, vabbè. Però la SWL 2007, poi c'è un altro foglio che c'è un codice del 2005, non so cosa sia. Poi c'è trovare la licenza. Avevo l'Elbex, no, il Goldates 4008 lì c'è, in concessione, anni 2000 Furani. Io ho ancora la concessione, il 1974 col preliminare con l'attaccato pinzato, dove c'erano tutte le frequenze, erano 23 canali, allora c'è la Fayette HB23. sempre quella. Poi avevo fatto, quando ci poteva rinnovare, l'ho fatto rinnovo, avevo messo l'Alan 48 e sempre l'Alan 48 avesse dentro una scatola, ma sempre quello era. Non l'ho mai dato. Ne avevo due, uno l'avevo dato a Claudio Di Muro e uno me lo sono tenuto. Io avevo quel Golas 4,8 che poi mi ricordo che agli inizi che modulavo, che ero proprio ragazzino, non mi ricordo cosa era successo, non avevo fatto qualche accordo. Allora ho salito da Pomponio e l'ha dato fuoco di Rodutto. No, io ce l'ho sempre, la concessione ce l'ho sempre l'Alan 48, ce l'ho, per qualsiasi controllo io ho sempre l'Alan 48. Non l'ho mai dato, ne avevo due e quello col che c'era la concessione ce l'ho ancora, è vecchissimo però è nuovo, funzionante, ma ce l'ho sempre. Avanti Robè. Io invece facevo l'Alan 48 e quel portatilino avevo messo in concessione, però ci siamo dimenticati dei curiosi anche i postini, a chi non li sa ne già la mette. I postini, gli idraulici ce ne sono tanti, ma quelli principali sono quelli che ti ho nominato io, guarda. Quelli sanno tutto di tutti, sanno i quando entri, quando esci, cosa buon pareggi, cosa hai, cosa non hai, però non so mai da niente, capito? Perché magari loro hanno qualche cosa in meno rispetto agli altri e allora riescono a fare queste cose, questi salti, no, che fanno, ma sono persone che io, per carità, guarda, lasciamo perdere, meglio perderle che acquistarle. Se no, se invece alla Midosi viene a comprare il cane di cavallo da Giacomino vicino a casa, che ti darà temi 45 minuti per due bistecche. A chi ti deve raccontare tutti i problemi che vanerati, tutti i goci vanerati, capito? E funziona così, mamma diceva sempre, se voi già bevi, ricordi, vai, lo vai bene. Allora a Porto Tosa c'era un altro Baulino, come si chiamava, non mi ricordo manco più il cognome, quello sapeva tutto di tutti, però non sapeva quello che gli altri sapevano di lui, capito? È lì il problema, no? È come questi individui che ci sono ogni tanto che si affacciano, capito? Che 3-4 giorni prima ti telefonano e ti dicono ci prendiamo un caffè, dopo 3-4 giorni no, ti arriva un messaggio dove ti sta facendo a pezzi. Lascia perdere, meglio niente. Era meglio cancellato Bogo, esempio. Nuno l'ha già cancellato da Bogo. La settimana scorsa, bloccato e cancellato, fuori dai coglioni, miserabile. Oh ioia, te l'ho sempre detto io, Cla, diffida delle imitazioni. E avevi ragione, Mianto, avevi ragione, qualche anno meno di me, ma avevi ragione. A volte devo ascoltare anche quelli più piccoli di me, una roba da matti. Una roba da matti, veramente. Non bisogna stare molto attenti. Mamma diceva sempre, stai attento con chi vai che ti dirò chi sei. Minchia, cazzo, non l'ho mai imparato. È come canta con lo zuppo. Vabbè, io zuppi ne ho pochi, altro. Grazie, ne abbiamo già parlato di questa storia, no? Io i zuppi li ho tutti eliminati, però pensavo di avere ancora qualcuno che fosse un po' più sincero, invece mi è successo di nuovo di incontrare per la strada, nonostante non siamo amici, non siamo mai frequentati, non abbiamo mai avuto niente in comune, però, capito? Esistono. E quello lì fa parte di queste categorie, capito? Guarda, io gli amici li saluto, ai cari li abbraccio. No, guarda, è meglio avere un amico cane che un cane amico, dai retta a me. Avanti Luca. Io posso dire, amici, io ho un amico e lo frequenti, ci esci, capito? Alla fine posso dire che io amici non ne ho, perché così, un amico lo ripeto, lo frequenti, conoscenti un bel. Sì, Luca, io sono d'accordo con te, conoscenti non c'è un bel, ma quindi so pochi. Proprio per il fatto che oramai non bisogna fidarsi più di nessuno. Assolutamente, perché veramente a volte rimango allibito, rimango perplesso, rimango distrutto, rimango come un imbecille, come porca miseria. Una settimana fa, 10 giorni fa ci siamo sentiti perché aveva bisogno di me, e se poi questo chi sta rovinando come Facebook ha rovinato molte persone, Paul Tacchi ha rovinato molte persone. Chi sta rovinando tutto sono questo WhatsApp, capito? Perché si scambiano messaggi, no? Uno griteggia all'altro, allora poi il vero amico, no? Prendete una mano, veda cosa ha detto Tizio, veda cosa ha detto Caio, veda cosa ha detto Sempronio, e lì succede tutto il patatratti, capito? Perché non si è manco intelligenti. Tu non devi fare a pezzi una persona, devi usare il telefono, non WhatsApp, perché può capitare che quello che secondo te ti sembra stupido è molto più intelligente di te, prende, gira il messaggio e ti fa sbrigare. Tutto un giro un po' sporco, mi sembra. Ma ti posso dire che non devo dare niente a nessuno, perlomeno, a me non mi risulta che devo cercare.